24 mattino. Rieccoci, Radio 24, 800 24 00 24 per chiamare, perché fra poco iniziamo con le telefonate, 349 238 6666. Sta per arrivare il momento dei cani e dei gatti con Oscar, che è a Milano e vigila come sempre, e abbiamo, dopo questa battuta di Roberto Speranza vagamente polemica, abbiamo Matteo Orfini. Per noi le feste dell'unità e il simbolo dell'unità è un pezzo di identità, forse a Renzi e company interessa poco, a noi invece tocca perché è un pezzo della nostra storia, della nostra identità. Io sarei contentissimo di poter restituire quel marchio al suo popolo, alla sua gente. E allora buongiorno a Matteo Orfini, il nostro prossimo ospite. Buongiorno. Presidente del Partito Democratico, già sveglio stamattina per un bellissimo motivo, raccontiamo. Possiamo? Sto facendo l'inserimento al nido della mia seconda figlia. E cosa si impara in questi giorni, diciamo, di trepidazione e di socialità? Perché le figlie si accorgono dell'esistenza del padre, mentre di solito, diciamo, pensano solo alla mamma. Quando tocca a noi di lasciarle dentro una scuola, ovviamente si disperano, e la prima volta che si accorgono di noi, noi soffriamo perché le dobbiamo lasciare. Vabbè, un'immagine struggente. Esatto. Quindi poi dopo si va a Montecitorio felici, insomma. Esattamente. Sì. Allora, l'esito del voto tedesco da due giorni ormai sta avendo ripercussioni sulla politica italiana. La destra si è divisa, Salvini ha detto in sostanza a Berlusconi ha vinto il no all'inciucio. Per chi è a sinistra, come lei che guida il PD, che impressione c'è? Beh, c'è sicuramente una grande preoccupazione. La dimostrazione che l'unico modo per contrastare il populismo è tentare di risolvere i problemi dei cittadini da un punto di vista progressista, cioè non abbandonarsi alla paura, non rassegnarsi a chi soffia sulla rabbia delle persone e cercare invece di girare quella rabbia in speranza. È quello che noi abbiamo provato con alterni succede esiti a fare in questi anni, e che però dobbiamo continuare a fare. Soprattutto ieri viene da dire che forse tutti quelli che si occupano esclusivamente di aggredire e attaccare il Partito Democratico forse oggi si rendono conto che fuori dal Partito Democratico c'è il populismo, c'è quel rischio lì. Beh, in Germania c'è un partito del 10% fuori dall'SPD. Sì, sì, beh, un po' meno, mi pare, sono visto 9,60 più che i Verdi che hanno più o meno anche loro il 10%. C'è un SPD molto fragile a differenza del PD che oggi tra i partiti socialisti europei, con tutti i nostri problemi, è quello il maggior salute. Lei quanto pensa che stia il PD in questo momento? Ma non lo so, ho visto l'ultimo sondaggio diffuso l'altra sera dalla 7, che di solito non è particolarmente generoso, ci dava primo partito al 28,6-28,7%. Senta, la nuova legge elettorale, qualora fosse approvata, e bisogna metterci un punto interrogativo visto quello che è successo nella precedente bozza, prevede le coalizioni. Lei è contento di questa possibilità, cioè che il PD dopo un anno, diciamo così, di isolamento possa trovare degli alleati a destra e a sinistra? Ma io ho ripetuto in tante occasioni, e lo ripeto ancora una volta, che il modello che avrei preferito era il modello tedesco, che non prevede appunto le coalizioni, perché penso che sia più adatto a un sistema politico come quello che si sta sviluppando in questo momento nel nostro paese. Mi sembra che diciamo quell'ipotesi lì sia tramontata definitivamente quando fu affossato dal Movimento 5 Stelle da qualcun altro a voto segreto, quando lo portammo in aula alla Camera qualche mese fa, e oggi stiamo riprovando con un meccanismo diverso che, diciamo, è un punto di equilibrio tra diverse esigenze, tra chi vuole il proporzionale, tra chi vuole il però la coalizione c'è la coalizione sulla parte legata ai collegi maggioritari. Però, mi pare che anche qui, cioè, ma perché sento quasi un certo fastidio alla sua voce? Una freddezza, ecco, diciamo, che lei ha trasmesso non un entusiasmo, che bello. Non l'ho mai nascosto e non lo nascondo. Poi naturalmente nell'impossibilità di fare quello che avrei voluto fare io, è giusto anche valutare e tentare con le subordinate. Credo che la presentazione Rosatellum 2.0, come mi sembra sia stato definito, almeno sta aiutando anche a stanare chi diceva di voler fare la coalizione e ci chiedeva una legge con la coalizione. Appena abbiamo presentato, si è sfilato dalla presunta ipotesi di costruirla. Ma lei, facciamo l'analisi delle coalizioni, si alleerebbe con Fratoianni e Bersani, che insomma ultimamente siete un po' in freddo? No, ma mi sembra che sia un'ipotesi che non esiste, per scelta innanzitutto loro, cioè nel momento in cui ci viene richiesta assoluta discontinuità rispetto alle politiche che hanno rimesso in moto il paese. Infatti loro dicono ci alleiamo se si rivede il Jobs Act. Sì, io faccio fatica ad andare in campagna elettorale chiedendo scusa per una riforma che ha prodotto 1 milione di posti di lavoro. Io penso che quella forse sia stata una riforma giusta e ne sono orgoglioso. Sono orgoglioso di aver contribuito alla mediazione che produsse quel pacchetto di riforme. Ma invece con Pisapia e Zedda, che dicono di volersi alleare, è possibile che il PD vada alleato? Ma dicono due cose diverse. Zedda ha detto di volersi alleare e Pisapia ha detto, insomma, cambia posizione abbastanza spesso, perché quando la riunione con MDP ha firmato un documento in cui si definiva alternativo al PD, e immagino non ci si voglia alleare con forze alternative. Poi ha lanciato le primarie, ha chiesto di fare le primarie con un leader considerato da lui alternativo. Cioè non capisco su quali basi ci si allea se ci si ritiene alternativi. Sì, invece cambia idea e rivede questo punto di vista, si può anche discutere, ma penso che questo lo metterebbe in conflitto con i suoi attuali partner Bersani e D'Alema. Quindi praticamente vede Pisapia un po' come il vaso di coccio fra il vaso di ferro vostro e quello dei bersaniani. No, in tutta onestà non è che mi appassioni, diciamo, la visione, la ricerca della definizione della posizione del giorno di Pisapia. Sto agli atti concreti, a un questa documento però è sarcasmo, definisce alternativa. La posizione del giorno, perché lei dice che ne cambia lei dice che ne cambia troppe. Ho detto appunto, nel momento in cui si apre il percorso costitutivo di un nuovo soggetto politico definito alternativo al PD, mi pare difficile che quel nuovo soggetto politico sia alleato del PD. Leggo le agenzie di questi giorni in cui tutti i leader di quel movimento dicono mai col PD, mai le primarie col PD, mai con Renzi, mai con questo gruppo dirigente, e Pisapia ha deciso con loro e non con noi di condividere un percorso, mi pare una scelta abbastanza scontata, incompatibile, no? Con un progetto di centrosinistra. Senta, Roberto Speranza, proprio questo microfono ha detto: ma vedo che l'Unità è fallita, è chiuso, le feste dell'Unità abbiamo letto, ha detto lui, che sono in crisi economica, secondo me sono uno strumento che il PD di Renzi non vuole più, ci piacerebbe che ce le cedessero a noi, cioè ci dessero la possibilità di utilizzare il nome. Essendo una storia comune, lei sarebbe disposto a questo accordo, questo patto? Ma non scherziamo, non è una storia comune, quelle feste sono il patrimonio. Comune anche a Speranza, no? Sì, perché ha fatto una scelta differente, è andato via da una comunità che quelle feste continua a organizzare, ne abbiamo fatte più di 1000 anche quest'anno, che sono andate anche abbastanza bene, persino la tanto criticata festa di Imola, che secondo alcuni giornali era sempre vuota, ha chiuso in attivo, a dimostrazione che poi così male non è andata, anzi, e noi abbiamo fatto dibattiti e incontri sempre pieni di gente in giro per l'Italia da giugno a settembre. Quelle quindi la risposta sarebbe no? Ma è un'ipotesi che non prendiamo nemmeno in considerazione. Le feste dell'Unità sono le feste del Partito Democratico, stiamo anche lavorando per farne l'anno prossimo di più, per studiare anche le modalità anche innovative per non limitarle solo alla fase estiva. C'è un progetto molto bello che stiamo preparando, quindi figuriamoci se le cediamo. E sulla testata dell'Unità? Piazza dell'Unità già, come noto, non è di proprietà del Partito Democratico, è di un gruppo... Beh, però la società ha anche il Partito Democratico dentro. Sì, ma in una quota assolutamente minoritaria e marginale. Noi abbiamo cercato in tutti i modi, esercitando anche la responsabilità derivante da quella quota di assoluta minoranza e anche mettendoci diverse risorse in questi anni, di tenerla aperta. Non disperiamo del fatto che possa tornare in edicola presto, ma ovviamente, ahimè, in questo caso non tutto dipende da noi, anzi poco dipende da noi. Allora, grazie a Matteo Orfini, e adesso è giunto il momento che tutti aspettavamo, il gattone, sentiamolo. Pubblicità e torniamo con Oscar, cani e gatti. Magari! Mattino. Rieccoci, Luca Telese, Oscar Giannino, quante cose di cui discute per i cani e per i gatti. Allora, i vostri messaggi, stanno arrivandone tantissimi, molti sulla vicenda della signora Giuseppina. 349-238-6666, che ora vi ricordiamo, 800-24-00-24 per intervenire. Fatemi sentire il ruggito del gattone. Oscar, per una volta uniti, esprimiti anche tu su questa cosa incredibile della signora a cui non hanno dato il permesso per la casetta nel cortile di casa sua e che sabato vogliono demolire. Il tonno, devo ammettere che sentendolo, insomma, no, i nervi non riescono a essere freddi, indifferenti. Ha chiesto il permesso, capito? Non le danno la firma sull'ultimo documento. Cioè, un terremotato in emergenza che chiede i permessi per una casetta amovibile, si può fare persino dentro un parco naturale una casetta amovibile, e lo so per esperienza, no, non perché ce l'abbia, ma perché conosco questa normativa, non gli danno una corsia preferenziale. Ma è una cosa da pazzi. Però vedi, queste cose cosa significa? Dai, ulula, Oscar. Ma non voglio ulula. No, che noi viviamo in un paese gatti, in cui Kafka si vergognerebbe. Kafka si vergognerebbe se fosse in Italia, perché direbbe: com'è possibile che io, nel produrre romanzi, novelle, in cui credevo che rappresentare la follia, l'eccesso estremo a cui può arrivare lo stato burocratico, fosse quello di ridurci e descriverci come degli scarafaggi. Ecco, e invece no, perché Kafka si guarderebbe allo specchio e direbbe: ma che scarafaggi, in Italia hanno fatto peggio, cimici, calpestate senza dignità. Ecco, noi superiamo per la burocrazia, la pubblica amministrazione, le regole asfittiche di un paese che vuole governare tutto, persino, purtroppo, l'amara fantasia di Kafka. Se mi mandano fuori dalla casetta, dove vado? Speriamo che qualcuno mi aiuti. Penso che ci possiamo impegnare, Oscar, a tenere viva l'attenzione. Speriamo sui nostri unici strumenti di riuscire a tenere sabato qualche cosa, però condivido. Ma guarda, a me ha colpito un'altra vicenda. A proposito di queste follie italiane, tu, i nostri ascoltatori potranno dire: non parlate di vicende al margine, ma di cose generali. Attenzione, l'intelligenza è prendere anche casi che appartengono limite al margine e che però sono la fotografia di un problema generale, come quello della signora che ascoltiamo. Secondo me anche quello che ho scoperto ieri sera, cioè una storia incredibile. Figlio di italiana. Racconta, racconta. Un figlio di italiana, nato in Italia, con un padre albanese, che nasce durante il fascismo. Durante il fascismo, per questo fatto, pur essendo figlio di italiana, nato in Italia, non può avere la cittadinanza italiana, perché all'epoca, sotto il fascismo, un'italiana sposava in Italia uno straniero, perdeva la cittadinanza. Bene, quindi questo italiano figlio di italiana è senza cittadinanza italiana, e a quel punto torna in Albania da ragazzino, vive 46 ma anni quando, con gli che, zii che in anno? Albania, e lui è nato nel 35, quindi perfetto. Torna in Albania da ragazzino e vive con una famiglia che viene perseguitata dal regime comunista di Enver Hoxha. Torna in Italia dicendo: bene, figlio d'italiana, nato in Italia, adesso che non c'è più il fascismo, posso avere la cittadinanza? La risposta della Repubblica Italiana è stata, fino a ieri, quando ha compiuto 82 anni, a 82 anni gli abbiamo dato la cittadinanza. Ecco, è stata: i tuoi figli sì, perché hanno una nonna italiana. Tu, figlio di italiana, nato in Italia sotto il fascismo che ti ha negato la cittadinanza, la Repubblica non te la dà. Allora, questo ma caso, perché? Qual è la motivazione? La motivazione, ripeto, è che siccome in quel caso lui la chiedeva in quanto figlio di un'italiana nato in Italia, ma lo ius soli noi non ce l'abbiamo, come è noto, e la Repubblica diceva no, tu non l'hai avuto allora e non te la diamo adesso. Ah, per anzianità burocratica. Una roba, siccome è stata fatta una cosa folle, allora bisogna perpetuarla. Ecco, lui va bene, allora, è pazzesco, 82 anni, vive in Puglia, italianissimo, pittore. Una storia segnalatami dal sindaco Magrone di questo comune pugliese, che è un amico di tanti anni fa, ha detto: guarda, io sono riuscito a fargli avere la cittadinanza a 82 anni. Riflettiamoci, cari ascoltatori. Allora, un ascoltatore polemizza con noi e dice: la casetta è abusiva, certo, perché non è perfettamente amovibile, lo sfratto è perché la magistratura ha sequestrato la casetta. Ma lo stiamo raccontando, certo, stiamo solo dicendo che in una condizione di emergenza, con la casa a fianco demolita, se chiedi permessi e fai una casetta che poi può essere demolita, può essere rimossa, ma viva Dio, datele permesso, poi verrà rimossa. C'ha 94 capito anni. Vabbè. Cioè, quanto deve aspettare per avere questa firma? Non sono d'accordo con te, scusami, non hai firmato, ma non sono d'accordo con te. Stiamo dicendo esiste una condizione di eccezionalità del terremotato che nel suo giardino deve poter fare una casetta. Non è un abuso edilizio, ecco, evidentemente. A quell'età poi, su, non lo so. A quell'età, per poi, perché ha la casa in cui vuole rientrare. Allora, l'altro tema grosso, i furbetti del CAS. Io mi sono già espresso, non è il CAS una parolaccia, una detta vicenda del CAS in lombardo. No, ma la cosa più bella sono quelli, ricordavo questa cosa, i Malpica, che così meticolosi che hanno ottenuto anche l'esenzione dell'IMU. Quindi hanno beccato il sussidio Oscar, 900 euro, e poi l'esenzione dell'IMU. E adesso dicono: noi restituiamo i soldi, toglieteci il procedimento penale. Che cosa? Beh, io trovo fantastico questa cosa. No, però voglio dire, come vedi, la mentalità, che cosa crea un ordinamento che non riesce a farsi percepire come inesorabile nelle pene con chi sbaglia davvero su poche cose di fondo? Induce tutti a pensare che si può trattare su tutto, perché la legalità diventa un principio articolato flessibilmente. Quindi io A, faccio il furbo e mi becco gli incentivi, B, lo faccio con intelligenza perché ho studiato bene le norme, quindi a quel punto mi sottraggo anche da quel po' di oneri tributari, terzo, se beccato, beh, vorrei mica punirmi. Lo sappiamo tutti che sei furbo tu nella mano pubblica e sono furbo io nel mano privato, una mano lava l'altra, e quindi beh sì, pago, però non mi fai il procedimento, capisci? È una mentalità, questa dell'arbitraggio continuo, che in effetti è quella che noi abbiamo sempre criticato, quando pur liberali contro le tasse abbiamo sempre criticato i condoni. Perché che cos'è il condono permanente? È l'idea che lo Stato non sia fondato sulla legittimità, ma sullo occhio strizzato dell'illegittimità non dichiarata, sulla quale alla fine un terreno di incontro si trova, basta che mi paghi un po' e alla fine io mi dimenticherò di punirti. Ma è questa roba qui, guarda, io non voglio sembrare moralista perché non lo sono, questa cosa di professore universitario di diritto tributario come di qualunque altra materia non mi scandalizza, perché chiunque mi scandalizza, sì, ma voglio dire non mi stupisce, no, scusami, mi scandalizza ma non mi stupisce, no, ho sbagliato, perché chi conosce l'università sa quanto in questa cooptazione ci siano trattative di questo tipo, come ci sono le trattative tra correnti per le nomine apicali in tutti gli uffici della magistratura italiana e così via. Allora, la cosa che mi pongo io come problema è questo: cosa pensa lo studente universitario? Può pensare davvero di essere in un sistema in cui il merito è la cosa che conta? Ecco, rispondetevi da soli, cari ascoltatori, al di là della riprovazione che abbiamo, dello sdegno che si suscitano vicende come queste per i protagonisti, cioè per i capi cordata, i maestri del diritto tributario, ripeto, come di qualunque altra materia, che si mettono a trattare per distribuirsi i pesi dei propri nelle nomine e nelle abilitazioni in tutta Italia. Ma io mi pongo un altro problema: gli studenti cosa pensano? Possono pensare davvero che il merito è la cosa che devono prendere sul serio nello studio, o penseranno: ho capito come funziona qua, adesso vediamo a chi mi devo collegare per fare, ecco. Ed è un paese tutto basato, questa, scusami, io conosco la tua passione per la vita pubblica, per l'importanza del ruolo dello Stato, cioè, ma quando questi sono i valori di fondo che trasmette, vuol dire che hanno fallito dalla radice, perché come vedi è tutto basato sull'illegittimità, sul rapporto personale, non c'è un principio che valga. Uno legge l'intervista di Cantone stamattina a Repubblica e alla fine dice sì, vabbè, ci stai proponendo, ma non per limiti suoi, l'ennesima variazione sul tema, inventiamoci un criterio per impedire che gli uomini non si mettano d'accordo e non trasgrediscono. La verità è che questo sistema pubblico italiano discrezionale invita come comportamento vantaggioso quello di mettersi d'accordo, transare, calpestare i principi dichiarati della legge e interpretarli per sé, sapendo che poi alla fine si trova pure il giudice amico se sei professore universitario. Ecco, questa idea dello Stato italiano così a me fa orrore. Allora, ancora chiedete molti che cos'è il CAS, lo ripeto per l'ultima volta, se no non finiamo mai. Fabio, è il contributo di autonoma sistemazione, la paghetta che giustamente il governo riconosce a chi gli è crollata la casa, il tetto, ti do 200, 400, 600, 900 euro il massimo se sei senza casa. Una però domanda, abbiamo addirittura 10 messaggi, tutti uguali, e quindi li riassumo tutti in un unico, è una domanda per me e per Oscar come giornalisti. Uno, qualcuno già si arrabbia addirittura, ma perché non ci date i nomi? I nomi non ve li possiamo dare per ora perché sono coperti da segreto istruttorio, non li abbiamo. Io devo dire la verità, Oscar, se li avessi, siccome credo all'esemplarità della pena, credo alle casse ruolas che i desaparecidos andavano a battere davanti alle case di coloro che avevano commesso dei crimini nell'Argentina nella dittatura, io questi li esporrei al pubblico ludibrio, cioè se escono fuori nell'atto giudiziario, quindi non sono più coperti da segreto istruttorio, io li pubblicherei, perché credo che non debba esserci nessun linciaggio, nessuna ingiuria, nessun sasso tirato, ma un po' di disprezzo pubblico per queste persone. Sì, li pubblicherei. Se questa è la domanda, li pubblicherei. Tu che dici, Oscar? Io penso che ci sono delle norme che tutelano la riservatezza degli atti giudiziari, e quella riservatezza è fondata sul fatto che se resi pubblici creerebbero un ostacolo al procedere delle indagini. Questo è il motivo della segretezza. Esatto. Detto questo, la pubblicità di questa cosa è una parte che va messa in conto, e quindi pure io li pubblicherei perché non tanto per l'idea monetaria, li pubblicherei. Cioè, io ho una vicenda per cui a ogni, non c'entra con questo, ma per capirci, lo stesso meccanismo, siccome sappiamo tutto di ogni, in poche ore, di ogni presunto responsabile di violenza sessuale in Italia, io continuo a dire i due carabinieri perché non sappiamo più niente, e non lo faccio per moralismo. Un giornale ha pubblicato la foto, il resto è Carlino, ed era sfocata. Senti, ma sai che abbiamo molti messaggi contro sulla vicenda della signora Giuseppina? Beppe d'Arezzo per esempio dice: balle tutte le scuse, tutti gli abusivi hanno un anziano e altre decine di scusi simili o più eclatanti. Però questa storia è stata passata ai raggi X, non è che ci abitano 100 persone in quella casa, c'è un'ordinanza restrittiva, con le ville sul può mare. Entrare addirittura una sola persona per volta, e quando entra un familiare non può entrare il medico. Quindi Beppe, su questa cosa non c'è truffa. Esatto. Ecco, se non siamo in grado di distinguere tra quelli che dicono di essere abusivismo di necessità e si sono fatti le ville sul mare delicata e la signora, ecco, allora non siamo più in grado di fare nulla, se non siamo in grado e di distinguere. Quelle non sono abbattute, sono tra le l'altro. Case in mezzo al mare. Mentre questa chiede abortito. Il permesso e non glielo danno. Se permetti, caro ascoltatore, c'è una certa differenza. Ottavio sui migranti. Buongiorno. Da dove chiami? Buongiorno. Scusa che non me l'hanno segnalato. Da Roma. Bene. Io sono un po' preoccupato politicamente parlando, e come immagine dell'Italia, come diceva il dottor Zanino prima. Temo che dietro l'immigrante che non paga il biglietto o che ha stuprato quello di Rimini, quando ci sono stati i carabinieri e 100 casi a Roma, eccetera, ci sono 51 arresti della Sacra Corona Unita, ci sono i professori arrestati, c'è l'andrangheta in Lombardia quando Saviano diceva che c'era il signor Maronista, non dire buffonate, e invece era stravero, con arresto dell'assessore, il Mantovani già arrestato. Sono tanti di quegli argomenti di natura illegale di tutta Italia, che noi ogni volta a quarto grado, a quinta colonna, a quella folcloristica trasmissione delle 19, anche un po' volgare, solo il caso dell'extracomunitario per coprire tutte le nostre malefatte. Non ne parla mai nessuno della camorra. La camorra ha ucciso già 80 persone. Guarda, io sono d'accordo con te, però di mafia e camorra no, ma parliamo continuamente però. Sono d'accordo sul metodo di quello che dici, ma di mafia e camorra noi parliamo ogni giorno. Ora, proprio oggi abbiamo parlato di 'Ndrangheta e quindi di quelli che volevano fare di Milano la nuova Calabria, e facendo un insulto alla Calabria, perché la Calabria non è quella roba lì. Oscar, fate il nome del responsabile del procedimento della casa del giardino della casa terremotata. Se non si prendono uno per uno e non si nominano sempre in generale l'amministrazione pubblica, la burocrazia, non faremo mai passi avanti. Lo abbiamo detto, l'ordine di demolizione è del procuratore il procuratore della Repubblica. Allora, ovviamente si tratta di un'istituzione, non di un singolo cattivo. Il procuratore della Repubblica di Macerata dice che non è sanabile perché manca quella firma. Occhio all'indignazione che in Italia spesso nasconde l'invidia. Giustissimo, c'è un'altra chiamata. Ditemi il nome, fatemi vedere il nome che non ho la cosa. Maria. Pronto? Buongiorno Maria. Buongiorno a voi, io volevo riferirmi a questo cosiddetto scandalo dei concorsi universitari. Io non capisco perché ci meravigliamo, io ho 88 anni, mi posso riferire a cose avvenute negli anni 50, quando c'erano le libere docenze e si riunivano, questa volta ti metti tu in commissione e passa il tuo, poi passa vado in commissione io e passa quell'altro. Cioè i concorsi universitari sono sempre stati così. Negli anni 60-70, adesso non ricordo bene, un giornalista era andato a guardare gli annali delle università italiane e le cattedre di medicina erano praticamente ereditarie. Cioè è una cosa assolutamente, a una persona che io conosco molto bene, che non era riuscita a passare nei concorsi, in un concorso di un ospedale, era stato detto che era un ingenuo perché gli mancava il documento più importante, cioè la lettera di raccomandazione. La cosa dilaga dappertutto, perché se voi guardate anche nella RAI, guardate quelle ragazze, non so come chiamarle, sono tutte la moglie di un finanziere, la moglie di quest'altro, è tutto così, non c'è più da meravigliarsi. Oggi mi meraviglia che queste persone usino ancora il telefono per dire queste cose, sapendo che ci sono le intercettazioni che prima non c'erano. Io non lo so perché vi meravigliate. Ci meravigliamo perché la meraviglia è anche la non accettazione, però la sua telefonata e il suo racconto, devo dire, è molto bello. Ora c'è la magistratura che indaga, vedremo se, come speriamo, si riuscirà ad arrivare a un giudizio senza la prescrizione, perché le intercettazioni sono incontrovertibili. Però secondo fammi fare un'osservazione rispetto alla prassi che negli ambiti dell'Accademia, che l'Accademia funzioni per cooptazione. Questo è un continuum storico. Nei decenni si sono tentati delle misure per evitarlo, cioè ancorando, modificando mille volte come si fanno le commissioni e ancorando i giudizi delle commissioni a dei criteri oggettivi. Qual è l'impact factor su quante riviste, di quale prestigio internazionale, il numero di citazioni e così via. Lo scandalo, la violazione di legge non è, cara ascoltatrice, più rappresentata al fatto che i docenti tentino di far passare nell'abilitazione e poi nell'insegnamento i propri, quello c'è sempre stato, che lo facciano esplicitamente dicendo, sintesi, frase, non fare di più l'inglese, fai l'italiano, tu non passi anche se alla luce delle regole vigenti le tue citazioni, i tuoi lavori, l'impact factor scientifico di quello che hai fatto e che metti sul tavolo, che è quello in base a cui ci dovrebbe essere l'oggettività del giudizio, noi faremo finta di non vederlo e lo stracceremo e metteremo uno che non ha i tuoi titoli, che non ha lavorato come te, nomineremo lui solo perché ci siamo messi d'accordo noi. È un po' diverso dalla mera cooptazione, qui è il ribaltamento di una logica fittiziamente assunta come regola nel pubblico e in realtà violata in maniera palese. Allora, un'altra telefonata a Gabriella da Roma sui pensionati volati in Venezuela, sono curioso. Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. No, è semplicemente una domanda, volevo chiedere come mai non se ne parla di queste migliaia di persone, perché sono migliaia. Bravo. Dal Sud America soprattutto, vengono in Italia, fanno un mese e poi per anni non si rivedono più, ma percepiscono questo assegno sociale, che per me è uno scandalo. È uno scandalo. Ma dice italiani o stranieri? Sono italiani, no, sono italiani, sono tutti italiani dei paesi, soprattutto della Basilicata, che sono partiti, sono alcuni in Brasile. Tornano, incassano la pensione sociale e se ne rivanno. Tornano, fanno vedere che sono qui in Italia per un mese e poi dopo spariscono, ritornano nel loro paese perché oramai 50 anni, 40, eccetera. Certo, evidentemente lei ne conosce qualcuno per esperienza diretta. Io questo fenomeno, confesso, ma però non io lo conoscevo. Non ho capito, Oscar, la signora, no, siccome sono persone molte con nazionalità italiana, no, sì, di, certo, cioè, di età avanzata, ci sono tornano, centinaia di migliaia di italiani diritto e se ne che rimangono. Incassano tipi rapporti diversi previdenziali, prendono il la minimo minima sociale, la minima, perché hanno avuto diritto lavorando in Italia ad averlo. C'è chi prende normali pensioni più o meno elevate e sta all'estero. Questa cosa che vi scandalizza è un segno dei tempi, perché qualcuno vi ha rimesso in testa che gli italiani devono stare in Italia, se stanno fuori sono dei traditori della patria. Guardate, attenzione a ragionare così. Se chi sta in Venezuela, tra l'altro io avevo capito male, io credo che la signora dicesse non si parla dei tanti italiani venezuelani, no, che no, è vero, la signora e non lo parla facciamo di persone, secondo me, esatto, che secondo lei non hanno i requisiti, sono riusciti a ottenere grazie alla nazionalità, malgrado abitino e abbiamo vissuto all'estero, la minima. È così, signora? Ah, non c'è più. Va no, bene, questo però, penso ripeto, che fosse il questa tema. È la stessa polemica che abbiamo visto nascere. No, non è così. È così. Com'è? Sono persone che sono partite dall'Italia nel 50, 60, ecco, 70, sì. Hanno vissuto lì, sempre lì. Sì, e questo sta dicendo. Poi hanno scoperto che c'è questa possibilità in Italia di poter prendere questa pensioncina. E siccome lì non hanno diritto a nessuna pensione, in quanto non esiste nel loro paese. Oscar, il loro paese, signora, sono italiani. Sì, ma sta parlando di italiani, sì, che hanno lavorato all'estero che e hanno prendono il diritto, la minima, anche stando all'estero, ad incassare un assegno, ripeto, di diversi tipi di regime previdenziale. E quindi stiamo parlando della cosa che dico io. Questa cosa scandalizza perché, come vedi, la signora ci dice nel loro paese, no, sono cittadini italiani. La cittadinanza non si esercita esclusivamente nell'ambito del confine fisico del paese di cui si ha la cittadinanza. E ripeto, tornare ad avere quest'idea la dice lunga sulla deriva che avvertiamo e avvertite tutti intorno a voi, che torna coi tamburi a dirvi patria, traditori, ladri, chi non sta qui. Molto attenti a questo, molto molto attenti. Ci sono centinaia di migliaia di italiani all'estero che hanno chi la sociale, chi la normale previdenza, eccetera. Restano cittadini italiani? Sì. Hanno maturato secondo la legge quel diritto? Sì. Possiamo discutere sulle leggi con cui diamo, Oscar, le previdenze, però non è che sono traditori della, Oscar, patria. Però pensa a questo paradosso, no? Quel cittadino, sì, nato in Italia da madre italiana, sì, non ha, sì, ottenuto la, sono, cittadinanza. E però chi ha vissuto tutta la vita all'estero giustamente ha la sua cittadinanza, sì, per il diritto di natalità da genitori italiani, pur avendo vissuto maggior parte della sua vita, prende addirittura la pensione. È un bel paradosso, su come si creano. Ma è un bel paradosso, differenze, che non mi invita, in nome di un errore che voglio riparare, il, no, caso che ho, certo, citato, a dire quindi ne faccio altri per tutti. Cioè, voglio dire, ci sono donne italiane che hanno la reversibilità stando all'estero rispetto al coniuge che ha lavorato in Italia? Cosa vogliamo dire? Se stai all'estero ti levo la pensione? Ma beh, guardate che così, così ragionando si va al nazismo. Senza contare dei tanti, e io li considero eroi, che dopo aver lavorato in Italia, sì, tanti anni, hanno la pensione e se la vanno a spendere dove vogliono. Dove vogliono e dove c'è Matrix un maggior potere d'acquisto. Un servizio sulla, sono comunità stati attaccati di Ammamet, anche loro. Sulla, certo, comunità del Marocco. Sono pensionati, Portogallo, italiani che vanno a, Canaria, spendersi a dove vogliono e sono cavoli loro. Sono Lorenzo da Milano su Giuseppina. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Bada. Pronto? Sì, buongiorno, sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione e un complimento soprattutto a Giannino, che condivido. Come soprattutto a Giannino? Lorenzo, mi fate, ma io la casso subito. No, scherzo. ma cane e gatto è un amore odio, forse sono due poli che si, guardi, solo amore, però quando lo vedo come lo vedo io, con la zucca fosforescente e collegato da Milano, prego, vada. Senta, io volevo intervenire sul tema della signora con la casetta per una, sì, citare un post che ho trovato molto veritiero, perché ho letto sul, su Facebook, sulla pagina. Vada, dica la sua opinione. Sostanzialmente, la mia opinione è questo tema, è che è successo a un ufficio postale delle, credo di Vercelli, dove un dipendente è stato trovato palesemente con le telecamere eccetera a rubare, certo, e poi le hanno rimesso. Quindi è stata instaurata la procedura per il licenziamento. Il dipendente in primo grado è stato licenziato, in secondo grado è stato reintegrato, perché lo abbiamo raccontato, ha ragione, vergognoso. Finisce con questo lampo, domani tornano i cani e i gatti. E dovremmo tornare su questa cosa dei residenti all'estero, perché naturalmente abbiamo suscitato un casino, dicono no, devono essere residenti in Italia, sì. Ci può essere residente in Italia vivendo all'estero, ragazzi, e venendo qua. Ma perché vi hanno così insospettito tutti? Mamma mia.